Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. In apertura di programma ci trasferiamo in Veneto, siamo a Tarzo, in provincia di Treviso, 4.609 residenti. Qualche giorno fa il sindaco leghista Gianangelo Boff ha deciso di stanziare un fondo di 10.000 euro a favore delle famiglie di immigrati, non solo a dire il vero ma soprattutto perché potessero mandare i loro bambini all'asilo. Ci racconta tutto Gianangelo Boff. Ci eravamo accorti che le due scuole parrocchiali avevano dei problemi legati al numero dei ragazzi che li frequentavano. E sappiamo bene che i contributi regionali vanno in base al numero dei ragazzi, quindi rischiavano di perdere qualche sezione. Anche abbiamo fatto un'analisi un po' più complessa e abbiamo verificando con i dati anagrafici, quanti bambini frequentavano l'asilo e quanti no. E ci siamo accorti che 14 bambini non frequentavano l'asilo. Di questi 14 era emerso che 3 erano cittadini italiani e gli altri 11 erano cittadini extracomunitari. E quindi, diciamo, sommati diversi benefici, che poi sono benefici che vanno a ripercuotersi anche sulla cittadinanza comunque italiana, e valutando anche il fatto che comunque cioè è una realtà con la quale dobbiamo dialogare, dobbiamo favorire l'integrazione, perché andiamo a risolvere oggi problemi molto più grandi che potrebbero porsi domani. In questo modo avete anche garantito la sopravvivenza dei due asili parrocchiali, che voglio dire, noi avevamo tentato anche nel tempo di fare degli asili comunali, ma c'eravamo ecco accorti. Non avete un asilo comunale? No, l'asilo comunale in termini di costi avrebbe costato allo Stato italiano, comune, regione e Stato, molto di più rispetto a cosa si costano oggi le scuole parrocchiali con i contributi che vengono erogati da comune, regione, eccetera. Certo, però di fatto avete fatto un favore alle scuole parrocchiali, non tanto alle famiglie, perché le famiglie avevano deciso di non mandare i ragazzini ed era nel loro diritto, insomma. Senta, ma come hanno accolto la proposta queste 14 famiglie? Cosa hanno detto? Sono già tutti iscritti all'asilo. Senta, ma lei, sindaco leghista, nessuno nel suo partito le ha fatto notare che alla fine questi soldi sono arrivati a delle famiglie di immigrati? Allora, nel momento in cui uno è inserito nel nostro paese, perché parliamo comunque di famiglie che già lavorano 10, 12, 15 anni nel nostro paese, quindi famiglie completamente inserite anche nel tessuto lavorativo, eccetera, che magari adesso con la crisi subiscono qualche contraccolpo come anche le nostre famiglie. Quindi nessun mugugno all'interno del partito? No, fermo restando tutte le premesse, chi nel nostro paese si comporta bene e lavora e ha magari qualche problema legato alla crisi economica, è giusto che venga aiutato, anche perché comunque io non lo ritengo un aiuto, io lo ritengo un investimento. Questa storia ci ha veramente colpito. A 9 anni non può percorrere da solo la strada scuola-casa, anche se si tratta solo di 200 metri. Lo ha stabilito il Tribunale di Trieste perché quella strada potrebbe essere pericolosa. A rivolgersi al giudice la dirigente della scuola primaria di Buio, in provincia di Udine, che per legge è responsabile, come tutti gli altri presidi, dell'incolumità degli alunni anche nel tragitto che li riporta a casa. E a nulla sono valse le proteste della famiglia, secondo la quale il bambino sarebbe perfettamente in grado di affrontare questo lungo viaggio, pensate, di 200 metri da solo. Ci siamo fatti due chiacchiere con il sindaco di Buia, Luca Marcuzzo. È chiaro che secondo me la visione d'insieme e il buon senso sta un po' venendo meno. Sta un po' venendo meno perché, insomma, questo tribunale ha deciso che di fatto non può essere il genitore a decidere se il bambino torna a casa da scuola da solo, perché comunque è responsabilità della scuola. Quindi la scuola deve essere sicura che non gli succeda niente. Ma questi 200 metri come sono? Guardi, stiamo parlando di una strada comunale che ovviamente è fuori dal centro, che come il 90% delle strade comunali non è dotata di marciapiede, magari non è dotata di illuminazione sufficiente, ma da lì a dire che questa strada è pericolosa, ce ne passa, capisce? Insomma, è pericolosa quella strada perché le macchine passano vicine ai bambini, tutto sommato, non ci sono marciapiedi, il sindaco deve fare un marciapiede però, Guardi, se dovessi fare il marciapiede su tutte le strade comunali, abbiamo 120 km di strada in un paese con 6.800 abitanti. Ma questa strada arriva a scuola, quindi insomma lì ci vuole questo marciapiede. Sì, ma vede, ma su questa strada ci passeranno, non so, a dirla grande, 50 macchine al giorno. Lei ha dei figli? Sì, sicuro, ne ho due piccoli, uno di 7 e una di 4 anni, però giustamente anche quello che dice la madre è ovvio, è logico che se continuiamo a proteggere con una esasperazione tale i nostri bambini, questi non cresceranno mai. Quindi, insomma, lei ce lo manderebbe suo figlio di 7 anni da solo su quella strada? Sicuramente sì. Quando un bambino viene educato in un certo modo, sa attraversare la strada, non lo mandiamo in centro città o in un luogo dove sfrecciano auto a 200 all'ora. Insomma, questa dirigente scolastica ha un po' esagerato, mi sembra di capire. Noi l'abbiamo cercata, non ci vuole parlare. Ha un po' esagerato. Addirittura ha portato a scuola il bambino lei mano nella mano, poi ha mandato i carabinieri. No, ma capisco anche la dirigente, perché scusi, qua in Italia la legge non guarda in faccia nessuno, quindi quando uno sbaglia paga, indipendentemente se lo ha fatto col buon senso o meno. E quindi capisco anche la dirigente, perché è coinvolta in una situazione in cui deve assumersi una responsabilità. Però, insomma, se questo bambino cade, inciampa e si sbuccia un ginocchio, tutto sommato la responsabilità è sempre della scuola. Io dico, se andiamo a guardare tutto questo, allora un bambino deve stare continuamente col genitore, sempre 24 ore su 24, attaccato alla mano, non può lasciare mai il genitore, solamente a casa. Allora andiamo dove, a che livelli andiamo a finire? Voi portate i vostri bambini a scuola a piedi o in macchina? A piedi. Abitate qui vicino? Sì, insomma, 10 minuti a piedi buoni. Indifferentemente dal tempo? Sì, pioggia, neve, vento. Ma perché li portate a scuola a piedi? Io personalmente perché almeno cammina un po', infatti, perché se no stanno poi un po' di moto. Seduti. E loro sono contenti? Insomma. Io li porto in macchina. Dove abita? Là dietro, 700 metri dalla scuola. Allora, io li ho portati a piedi anche l'anno scorso con la neve. Primo perché odio girare a Milano in macchina, perché sono tutti nevrastenici che urlano. Secondo perché preferisco camminare. Già sono sempre chiusi a scuola, ci mancherebbe solo anche in macchina. No. È qui in macchina o a piedi? A piedi. E ci sono molte macchine parcheggiate in seconda fila, eccetera. Macchina sempre a piedi perché abbiamo la fortuna di abitare molto vicino alla scuola. Avete sentito un gruppo di mamme milanesi, qualcuna non molla la macchina, troppo comoda, qualcuna invece porta i figli a scuola a piedi, anche se rigorosamente per mano nessuno osa come genitori di buia mandare i bambini da soli. Perché in fondo siamo nati per camminare, ed è proprio così che si chiama l'iniziativa organizzata dai genitori anti-smog in collaborazione con il Comune di Milano, l'azienda dei trasporti ATM e Intesa San Paolo. La prossima settimana 4.500 bambini delle scuole primarie milanesi andranno a scuola a piedi, in bici, monopattino, mezzi pubblici, ben venga la fantasia. Insomma, la parola d'ordine è non inquinare e la classe più virtuosa verrà premiata. Sentiamo Valeria Corbella, presidente dei genitori antismog. Questo lavoro di formazione sui piccoli dovrebbe formare anche i grandi a una mobilità sostenibile per una migliore qualità della vita. E i bambini abbiamo visto che veramente rivelano una mente ecologica e tutto quello che gli adulti dovrebbero essere in grado di fare di mantenerla. Il disegnare le schede è un'attività che verrà svolta in classe con le insegnanti? Esatto. Poi ho visto in internet una tabella settimanale. Sì, perché ogni giorno c'è il punteggio settimanale che compara le varie classi. Cioè, una cosa bella anche di Siamo Nati per Camminare che vi è molta socialità, nel senso i premi non sono mai individuali ma sempre collettivi, quindi si forma uno spirito di gruppo, di classe in questo caso, o anche di scuola. Quelli che più camminano più hanno punteggio, perché... Quindi vince la classe e non il bambino? Vince la classe e non il bambino. Ha visto che il Tribunale di Trieste ha detto che i bambini non possono andare a scuola da soli perché potrebbero incontrare dei pericoli lungo il tragitto? Ma sicuramente, purtroppo, vabbè, decretarlo in via ufficiale è sempre triste da sentire, però sicuramente le nostre città non sono più a misura di bambino, ma neanche lontanamente, ma non solo per la questione di sicurezza, essere portati via dall'uomo nero, ma anche perché vengono investiti e gli attraversamenti pedonali sono difficilissimi, anche gli stessi mezzi pubblici, non lo so, se parliamo dei tram, hanno dei gradini che da soli un bimbo non può fare, quindi abbiamo delle città veramente difficili per i bambini, è vero. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo alle 12.45.